sguardo e lo stringo nelle mani. C'è nei tuoi occhi una paura antica, sogni di cenere si infiammano ora in te. Quando i timori si dissolvono, tu credi in me. Thank you.